Sound check, il suono della musica di Gegè Telesforo. Grandissima musica al soundcheck di questa domenica qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi, buona domenica da Gegè Telesforo e buona domenica Silvia Barba e Francesco Tromba. Buonasera a te, buonasera a tutti, ciao. Ho detto bene, grandissima musica. Eh sì, assolutamente, non ho sbagliato. Bellissima. Come sempre però, Sì. Non è che oggi facciamo un'eccezione, però oggi musica molto interessante, molto bella, molto piacevole. Album da acquistare, direi, assolutamente li vogliamo raccomandare. Oggi vi presentiamo tre album freschissimi di stampa. Il primo del quale vi vogliamo parlare è un album che potrà piacere, secondo me, non solo agli appassionati di jazz, ma anche agli amanti della musica classica. E potrà piacere a tutti coloro che credono nella musica, credono nella bellezza, credono nel piacere di fare musica di un certo tipo. E protagonisti di questa pubblicazione, che non ha un titolo ma porta semplicemente il loro nome, perché per la prima volta nella loro carriera si incontrano discograficamente, sono il mandolinista elettrico Chris Thiele e il pianista Brad Mehldau. Che vogliamo dire? Che sono fantastici. Che sono fantastici. Con Francesco abbiamo già presentato questa accoppiata anticipandovi questa pubblicazione, proponendovi un brano proposto dal vivo da questi due signori che già si stanno esibendo in tutto il mondo con grandissimo successo. Ecco, anch'io spero di avere la possibilità di poterli vedere dal vivo, soprattutto dopo aver ascoltato questa nuova pubblicazione per Non Such, etichetta importante negli Stati Uniti e nel mondo, che non poteva lasciarsi sfuggire questa occasione, anche perché in un brano di questo album addirittura Brad Mehldau fa i cori. Canta per la prima volta, quindi c'è della bellezza in senso assoluto. Suonano un repertorio vario che va dalle composizioni originali, alcune scritte insieme, fino a brani di autori come Bob Dylan o Elliott Smith. Io direi proprio di partire subito. Ok, ascoltiamo subito questo brano, si intitola Independence Day. Elliott Smith, il compositore, Chris Thiele, Brad Mehldau al soundcheck di Radio 24. Ve l'avevo detto, è un album splendido da non perdere. Chris Thiele con il suo mandolino elettrico e Brad Mehldau, due dei protagonisti della musica di oggi, insieme in questa pubblicazione della Non Such, album registrato molto bene in studio, tra l'altro da un mio amico, è incredibile. Tanti anni fa abbiamo lavorato insieme a James Farber, che era proprio l'ingegnere del suono che collaborava con la Go Jazz di Ben Sidran. Oggi è considerato ed è sicuramente uno degli ingegneri del suono più pagati in studio negli Stati Uniti. Non è facile lavorare con lui, non è facile lavorare, tra l'altro, Francesco, con un ingegnere del suono che suona il pianoforte meglio di tanti pianisti. Pensa tu, ti potrebbe fregare anche il lavoro. Ah, quello assolutamente, suona il pianoforte molto meglio di me, ma non meglio di Brad Mehldau, che infatti è considerato forse, diciamo, si può dire al top di gamma? Beh sì, in questo momento è sicuramente il rappresentante più importante del pianismo nel jazz. Tra l'altro questo progetto che abbiamo ascoltato di Chris Thiele e Brad Mehldau nasce come progetto live, perché i due suonano per la prima volta nel 2011 insieme. Hanno avuto anche un periodo di residenza alla Wigmore Hall di Londra. Poi hanno suonato di nuovo insieme dopo 4 anni nel 2015, e da lì è nata l'idea per fare questo album. Sì, ed è molto bella la cosa che Brad Mehldau un po' si mette a disposizione delle sonorità di Chris Thiele. Infatti c'è questa venatura bluegrass nel percorso sonoro di tutto l'album. Io direi di ascoltare anche questo brano scritto da Bob Dylan. Devo dire che questa versione mi piace più dell'originale. Quando la cover è migliore dell'originale. No, vabbè, insomma, si può capire anche il perché. Ascoltate Don't Think Twice, It's All Right, Chris Thiele e Brad Mehldau al soundcheck di Radio 24. Soundcheck. Il suono della musica. Dalle sonorità bluegrass e jazz proposte dal mandolino di Chris Thiele e il pianoforte di Brad Mehldau, al suono malinconico splendido di Richard Galliano con la sua fisarmonica qui al Soundcheck di Radio 24, con un nuovo album, anche questo ve lo vogliamo raccomandare, intitolato New Jazz Musette. Beh, New Jazz Musette, che è una dichiarazione di intenti, se vogliamo, perché Richard Galliano, all'apice della sua carriera, torna alle sue origini proprio perché il musette è un genere musicale che appunto andava riscoperto e riadattato alla contemporaneità. Racconta Richard Galliano che lo spunto glielo diede Astor Piazzolla tantissimi anni fa, quando gli consigliò di fare un'operazione particolare, come lui aveva fatto con il tango, con il new tango, e disse: devi prendere il genere musette, liberarlo insomma dagli stereotipi che erano quelli delle balere. Ovviamente la fisarmonica è vista come quello strumento assolutamente inserito in quel contesto lì, e farlo suonare alla tua maniera, reinventarlo da capo a piedi. E quindi portando il genere senz'altro più sul jazz e sull'improvvisazione. Innalzarlo alla bellezza della composizione. Album jazz. Veramente bello, un doppio CD. Io consiglio a tutti gli appassionati di jazz, di musica, e anche agli appassionati di questo bellissimo strumento che, come diceva Silvia, viene molto utilizzato anche nella musica popolare qui da noi, no? Ci sono band che propongono mazurche, per esempio in Emilia Romagna, no? C'è la tradizione nelle balere, come dicevi tu. Comunque c'è un appuntamento con Richard Galliano, credo dal vivo, Francesco, giusto? Sì, perché suonerà a Pescara il 7 marzo in duo con Ron Carter. Che meraviglia! E poi tornerà anche ad aprile, sarà Milano, Napoli e Spoleto, il 3, il 4 e il 17 di aprile, con vari progetti. Uno dei protagonisti della scena jazz e della musica francese nel mondo, lo riascoltiamo da questo nuovo album intitolato New Jazz Musette. Alla batteria c'è un mio amico, il formidabile Dedé Ceccarelli. Il brano si intitola Aurore. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Un brano intitolato La Travagliata, una composizione scritta da Barbara Strozzi, una soprano compositrice proprio protagonista del periodo barocco, quindi vi stiamo parlando del 1650 più o meno, giusto? Sì, esatto. Esatto, è composizione che viene riportata alla luce da due protagonisti della scena musicale contemporanea: il nostro favoloso Paolo Fresu e il pianista Uri Kane. Album nuovissimo anche per loro, una ripresa dal vivo realizzata a Milano al Teatro dell'Elfo. Sì. Ecco, album intitolato Tu Minuetos, e i due amici tornano a collaborare, ormai fanno musica insieme da tantissimi anni, e si sente perché sono veramente affiatati. Io ho trovato ancora una volta questo album di Paolo Fresu per la sua etichetta Took Music. Abbiamo fatto una bella chiacchierata con Paolo proprio sulle etichette discografiche tempo fa a Parigi. Ci siamo incontrati per un concerto realizzato all'Istituto di Cultura Italiano di Parigi, concerto benefico per la ricostruzione del teatro di Amatrice. Chissà se ci sarà mai la ricostruzione del teatro, ma anche la ricostruzione del paese, ce l'auguriamo. Paolo molto attivo, dicevamo, uno dei musicisti italiani più amati nel mondo, bisogna affermarlo. Noi lo salutiamo, lo abbracciamo forte e speriamo, caro Paolo, di poter collaborare prestissimo insieme. Se ti dovessi trovare a Roma da queste parti, vieni a trovarci, ci facciamo anche una bella chiacchierata qui al Soundcheck. Che hai da dire, Francesco, su questa pubblicazione? Niente, che era 8 anni che non usciva un disco di Uri Kane e Paolo Fresu insieme. L'ultima volta era per Fink, che è un gran bel disco che è andato anche molto bene dal punto di vista delle vendite. Ecco, è coraggiosissimo anche Paolo con la sua etichetta Took Music, coraggioso anche nel formato, no? Perché è un formato che non ha lo standard tradizionale dei CD, tant'è vero che quando lo metto nella mia discoteca riconosco gli altri album della Tuk perché vengono fuori e non sono allineati con gli altri. Forse proprio per questo motivo lo ha realizzato con questo formato, così li riconosci subito. Sono belle anche le copertine. Molto ben realizzate. Paolo, va bene, ti stiamo facendo troppi complimenti questa sera e quindi salutiamo tutti voi con un altro brano. E io, questa, che vogliamo dire su questa composizione, Silvia? Che bello. Maurizio proprio, Fabrizio e Bruno Lauzi, ma un brano che ha fatto davvero la storia della canzone italiana. Sì, anche per ricordare Mimì, almeno tu nell'universo, che composizione, un vero e proprio standard. Ogni volta le lacrime, grazie e soprattutto verranno le lacrime ascoltando l'emozionante versione di Paolo Freso e Hurricane. Con questo brano vi salutiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo 19:15 qui su Radio 24. Buona serata e buona domenica a tutti voi. Ciao.